questa terza registrazione parleremo appunto del passaggio naturale che c'è stato tra la terza forza, psicologia umanistica, e psicologia transpersonale, a partire da Maslow, poi a Saggioli e tanti altri. Questo passaggio avviene anche grazie allo studio delle peak experience, cioè di quelle esperienze, le esperienze delle vette che capitano agli esseri umani via via che si avvicinano all'autorealizzazione, all'auto, e soprattutto poi all'autotrascendenza. La psicologia transpersonale, ovviamente, è debitrice delle tradizioni sapienziali. Psicologia transpersonale, oltre la persona, vuol dire oltre la dimensione psichica, oltre la dimensione dell'ego, oltre la dimensione del conflitto, quindi va nel campo dove, nel campo privilegiato appunto dalle tradizioni sapienziali, sia orientali che occidentali. Quindi si nutre delle forme più evolute del misticismo senza cadere nelle parti, nelle contaminazioni mitiche che a volte il misticismo può ancora portarsi dietro. Quindi è un misticismo di tipo moderno, compatibilissimo con la scienza moderna. Infatti la psicologia, poi la psicologia transpersonale, si giova del collegamento con la scienza d'avanguardia e quindi con i paradigmi della scienza d'avanguardia, il paradigma olistico, il paradigma quantistico, paradigmi relativistico e così via. Quindi si ha il superamento della visione riduzionista e meccanicista che la scienza aveva nell'Ottocento. E allora, per dirla nei termini di Bateson, ci si sta avvicinando sempre più a un pensiero scientifico e un pensiero umano che sia coerente al modo in cui funziona la natura, e quindi ci avviciniamo al pensiero, ad esempio, dei taoisti. I taoisti che ritenevano che la natura fosse la nostra grande maestra, e insieme ai taoisti tanti altri. Questi principi di questo nuovo paradigma sono riassunti già benissimo dal buddismo: l'inter-essere, ogni cosa è collegata a tutte le altre, oggi lo possiamo dire attraverso il campo quantistico, che ha una sua memoria, l'impermanenza, nulla sta fermo, ogni cosa in relazione a tutte le altre, ma niente sta fermo, tutto in movimento, quindi non tanta rei, come disse Eraclito. E l'altro principio, che è quello appunto della coevoluzione, perché se ogni cosa è collegata a tutte le altre e ogni cosa che si forma è collegata con le altre, tutte coevolvono insieme. E quindi tutta la tematica oggi del campo, dei campi, del campo morfico, del campo dismorfico, dei campi omorfici. Tutto questo, questa nuova visione, in primo luogo è una visione filosofica, una visione della natura, ed è una visione dell'essere umano inserito dentro la natura. È una nuova visione delle relazioni umane, è una nuova visione della cultura come promotrice delle corrette relazioni umane. Quindi è una filosofia che in sé promuove una nuova umanità, nei termini in cui usa questo termine Marco Guzzi. Cioè una umanità che non sia più preda dell'ego bellico, cioè che abbia superato il livello egoico, narcisistico, conflittuale. Ecco, e a questo punto che diventa naturale il passaggio dalla filosofia alla politica con la P maiuscola, così come la vide Platone. Movimento politico con la P maiuscola, perché noi, come disse Aristotele dice, non siamo esseri isolati, siamo esseri che ci realizziamo nella famiglia, nel gruppo, nella comunità, nella polis. E quindi ognuno di questi livelli deve favorire anche l'evoluzione dell'individuo. E qui va citato che cos'è la polis, la politica per i greci. I greci inventano la politica, il termine politico, che è quell'arte di governo che consente, favorisce, rende, crea un contesto di opportunità, lo diciamo nei termini ogersiani, affinché i cittadini imparino a contemplare la verità. Ma la verità cos'è? Da aletheia, aletheia a alfa privativo teles, cioè cosa viene svelato. Quindi non vivi più nel mondo delle apparenze, quelle che colpiscono i sensi, ma vivi nel mondo che può vedere colui che ha fatto il percorso di educativo, la formazione. Ogni percorso educativo è un vero percorso evolutivo, è proprio una rivoluzione, cioè un girarsi su se stesso, non guardare più quelle immagini fuorvianti che stanno nel fondo della caverna, ma avviarsi con un processo a volte faticoso, lento, difficile, verso l'uscita dalla caverna, dove puoi incontrare le anime più grandi di te, che ti aiutano nel processo. Allora, questo movimento politico, che quindi è un movimento politico, è politica umanistica, questa qua potremmo dire, è filosofia umanistica, psicologia umanistica, politica umanistica. Politica umanistica cosa vuol dire? La politica che aiuta la realizzazione della vera natura umana, quella che non vede l'uomo legato ai sensi. L'uomo ancorato ai sensi è ancora meccanico, non vede la vera natura umana e quindi rimane legato a un'epistemologia radicata nella fede negativa homo homini lupus. Per fare questo salto, come ben ci insegna Reich, c'è un lavoro, anche lui dice, c'è un lavoro da compiere, perché l'uomo meccanico non si convincerà mai che esiste un'altra realtà, che si può uscire dalla caverna, riterrà la caverna il luogo della verità. Quindi scambia per vero ciò che è falso e falso ciò che è vero. Ecco per cui il movimento politico, che è un movimento che si basa su una filosofia, è anche un movimento educativo. Quindi la politica, ecco perché Platone si interessò così tanto poi di educazione, perché la polis necessita educazione. Educazione che è quel processo lungo, complesso, che può portare l'uomo a diventare uomo politico, l'uomo in grado di governare la polis. È un percorso molto lungo, molto complesso, richiede vari passaggi. Bene. Bene, ora i tempi stanno maturando per comprendere come queste grandi intuizioni dei filosofi greci possono prima o poi realizzarsi, perché siamo usciti da una visione meccanicistica e questa visione olistica traspersonale sta cominciando a prendere piede, sia pure lentamente, tra le coscienze, perché si vedono i danni della visione meccanicistica. Allora, vediamo già nelle dichiarazioni dei diritti umani e anche per stare più vicino a casa nostra, nella nostra Costituzione, in cui si parla di pieno sviluppo della persona umana, pieno sviluppo, piena realizzazione della persona umana, ma questa è una dichiarazione tipo umanistico, in cui ci dice che la nostra Costituzione è una Costituzione che dà valore alla persona umana e alla pari dignità di tutte le persone, sempre articolo 3 della Costituzione. Quindi la giustizia, il bene e così via. Ok, il grosso lavoro che fa Aleph in questa direzione è un lavoro di connessione, di creare le connessioni, che già ci sono ovviamente, ma di renderle esplicite tra tutti questi pezzi che invece sono stati separati. Se pensate soltanto che politica ed educazione si sono separati da almeno 50-60 anni, non si parla più dell'importanza decisiva dell'educazione nella politica, quindi si studia scienze politiche senza occuparsi di educazione, che è una cosa gravissima. Ma d'altra parte si occupa di psicologia senza occuparsi di politica e magari di educazione. Quindi le scienze tendono a frammentarsi, ma diventano specialismi. Questi specialismi soffrono di scarsa comunicazione tra loro, come ovvio, perché lo specialismo, abbiamo detto infinite volte, è premiato dal mercato, il mercato competitivo, il mercato dato. Ok, bene. Allora adesso facciamo un passo indietro. Dalla politica, che è il modo di gestione della polis, ritorniamo all'interno dell'essere umano, ritorniamo alla persona. Bene, la persona ha compiti politici, cioè deve svolgere l'io della persona, non a caso noi lo chiamiamo io governo, perché l'io governo è la funzione dell'anima, è la funzione esecutiva al servizio dell'anima, funzione esecutiva al servizio dell'anima, così come un governo è la funzione esecutiva al servizio di che? Della Costituzione. Per cui il governo che si pone in questa direzione è un governo costituzionalmente valido, l'altro è un governo che soffre di momenti o di periodi di incostituzionalità, producendo atti incostituzionali. Allora, se è vero questo, ne parliamo adesso nel prossimo video.